questi personaggi che operano su diverse linee, diciamo, temporali. È anche una commedia in alcuni momenti, però le atmosfere sono quelle di una bella poesia, ecco. Senti, in breve la trama per dare qualche indicazione a chi ascolta. Una mattina un uomo si ritrova al di fuori di se stesso, al suo posto c'è un doppio che lui pensa addirittura possa essere quel bambino immaginario con cui da bambino appunto dialogava e aveva discussioni oppure semplicemente era presente, condivideva alcuni stati d'animo. Per questo dico, è un film che è un pochino come Interstellar, perché unisce due dimensioni, sì, spazio-temporali, sì, in questo caso con la realtà di tutti i giorni e la struttura della società, di un uomo nella società, nella vita di tutti i giorni, con un altro piano che è quello della fantasia. Com'era partita l'idea del film? L'idea era partita tanti anni fa, in un momento in cui sentivo il bisogno di raccontare me stesso da un altro punto di vista, un punto di vista un pochino più libero, e lo avevo scelto nella vita della mia infanzia. E allora mi sono chiesto semplicemente cosa succederebbe se io incontrassi me stesso bambino. Questo bambino avrebbe la conoscenza che io posso avere adesso da adulto, e questa conoscenza che prezzo avrebbe da pagare? E allora mi sono chiesto, chissà se questo bambino che consigli mi darebbe? L'avventura spagnola di questo film, che poi ora arriva in Italia, raccontaci un po' che percorso hai seguito. Ho seguito, dal punto di vista produttivo, la via un po' dell'indipendenza. Sì. E poi quando uno dice io sono indipendente, in realtà poi si accorge di essere dipendente assolutamente da tutta una serie di necessità. E dopo essermi detto mi piacerebbe ambientare questa storia con tutta calma in un'altra città europea che non sia nel mio paese di nascita, mi sono fermato a Barcellona e ho deciso di vivere un po' lì. Poi alla fine, tra una pausa, una birretta, una paella, ho avuto il tempo di formare una società di produzione e di seguire il percorso difficile, anche lì produttivo, per realizzare un film indipendente da questo punto di vista. Il film ha già una certa età, perché comunque è del 2015, e ha avuto una distribuzione in Spagna, ha avuto già un passaggio televisivo, BTV, la televisione di Barcellona, dove è stato realizzato, e ha avuto un percorso di festival, ma più che altro di festival di cinema indipendente. Ha ottenuto anche dei riconoscimenti, dei premi, e io sono molto contento di mostrarlo qui nel mio paese, diciamo, di provare a far seguire a questo progetto, a questo film, un percorso adesso italiano. Ecco, come sono gli accordi col nuovo Cinema Aquila? Il Cinema Aquila è un, come tutti sanno, è sempre molto attento alle realtà del cinema, non solo italiano, del cinema indipendente. Offre occasione a molti autori di essere visti in un panorama dove comunque c'è una certa egemonia, e quindi mi ha fatto una bella proposta, ha detto facciamolo uscire qui, in questo momento, diamogli il tempo, diamo lo spazio, lavoriamo in questo modo per farlo vedere, e seguiamo a piccoli passi il percorso, con l'obiettivo di portare il film anche al di fuori di Roma. In questo caso Domenico Vitucci e Fabio Meloni con Cinema Mundi mi hanno anche fatto una bella offerta, quella di volersi occupare anche dell'uscita in altre sale. E io sto alla finestra, sto al balcone ad aspettare, perché, e lo dicevo poco fa un amico mio, è straordinaria questa condizione di filmmaker e di autore che, che porta il proprio film nel tempo, come se fosse un bambino che lo aiuta a crescere. Sì. In realtà il film parla proprio di questo, di un tempo che non si ferma semplicemente al passato o pensa a ciò che potrebbe essere il futuro, ma si ancora profondamente nell'unico tempo grammaticale che possiamo vivere, che possiamo percepire, che è il presente. Angelo, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente. Visitate innanzitutto il sito del nuovo Cinema Aquila, poi andate sulla pagina Facebook di Rocco Tiene Tu Nombre, oppure anche sulla mia, oppure sul sito ufficiale del film Rocco Tiene Tu Nombre. Il film sta in programmazione da giovedì 1 novembre. Alla proiezione serale delle 21:40 ci sarò anche io e Michele Venitucci, che è il protagonista, con Fabio Ferri, che è l'antagonista, diciamo. Presentiamo il film brevemente e poi ci fermeremo un po'. Il consiglio è quello di prenotare immediatamente i biglietti sul sito del cinema, perché per il momento abbiamo la sala piccola, no, pochissimi posti, quindi prenotatevi, ci sarà un po' di ressa. Allora, ricordiamo il film Rocco Tiene Tu Nombre, in uscita da giovedì 1 novembre a Roma al nuovo Cinema Aquila. Un saluto e un ringraziamento al regista Angelo Orlando. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A risentirci, un abbraccio, viva sempre il lupo e vi aspetto. Con Francesco Cordio, direttore dello Human Rights Film Festival di Orvieto dal 1 al 4 novembre. Francesco, ben trovato. Grazie, buongiorno. Allora, raccontiamo della nascita e degli obiettivi di questo festival. Sì, questo festival in realtà nasce a Todi un paio di anni fa, dove nella città di Todi, appunto, per due edizioni abbiamo portato film da tutto il mondo, documentari e cortometraggi, per il festival che allora si chiamava Diritti a Todi. Poi, come capita ogni tanto, sfortunatamente la nuova amministrazione della città di Todi ha pensato di non confermare l'utilizzo degli spazi, di patrocinare la nostra manifestazione, e per fortuna il comune di Orvieto ci ha accolto a braccia aperte e quindi abbiamo, diciamo, semplicemente spostato di qualche chilometro la sede dove si svolge il festival. Ma il festival, come hai detto giustamente, di 4 giorni, in realtà ha avuto inizio con la presenza di Ilaria Cucchi, che è venuta a ritirare il premio Antigone, che l'associazione Antigone, appunto, ha voluto dare al film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, che proietteremo poi domenica. E lei è in una serata molto commovente, è venuta a inaugurare il festival, quindi in realtà abbiamo iniziato ieri, il 31 ottobre. Per il resto il festival si arricchisce, oltre che del premio Antigone, anche di mostre d'arte, presentazioni di libri e molti film fuori concorso. Poi segnalo degli spettacoli teatrali, la compagnia Frosini Timpano ci regalerà uno spettacolo che è uno studio sullo zibaldino africano, loro lo chiamano, si chiama Acqua di Colonia, e poi uno spettacolo musicale invece sabato sera con Arturo Annecchino, il maestro Annecchino, che con una band di 10 elementi farà un'opera rock dal titolo Missa Laica, e questo avverrà al Teatro Mancinelli. Invece i film che sono anche quest'anno documentari e cortometraggi sono tutti quanti proiettati al cinema di Orvieto, nelle due sale, e praticamente abbiamo a ciclo continuo proiezioni di film in concorso. Inauguriamo con Costanza Quatiglio fuori concorso con il film Sembra mio figlio. Nelle prossime giornate avremo altri film fuori concorso. Termineremo domenica 4 alle 18 proprio con Sulla mia pelle. Quanti sono i lavori tra cortometraggi, documentari e film di finzione presenti, e quali sono le tematiche sulle quali vi siete concentrati? Allora, quest'anno abbiamo 8 film e due sale, tutti i cortometraggi saranno proiettati almeno 3 volte e i lungometraggi 2 volte, così da dare opportunità a tutti di vedere il più possibile della nostra proposta. E poi ci saranno 8 film fuori concorso. E, tra l'altro, stavamo facendo un conteggio proprio pochi giorni fa, in tutta la manifestazione abbiamo esattamente 100 eventi, quindi è una manifestazione molto ricca, dalle 9:30 del mattino fino alla sera a mezzanotte abbiamo sempre delle cose molto interessanti da offrire. C'è un sito dove il programma è tutto scritto per esteso, che è www.diorgeto.it. Le tematiche dei lungometraggi quest'anno, devo dire, il fuoco è particolarmente sulle storie di immigrazione, più che negli anni passati, però nei film selezionati il punto di vista non è quasi mai quello degli immigrati stessi, ma il più delle volte di chi opera sulle navi delle ONG o di chi lavora nei campi di accoglienza. Quindi diciamo è quasi un ribaltamento rispetto al solito, in cui la figura dell'immigrato diventava protagonista, adesso è quasi più su chi accoglie o su chi lavora per l'accoglienza. Poi però ci sono altre storie in cui il diritto umano non è esattamente legato a questi temi, ma per esempio si parla del diritto alla salute, con il bellissimo film Alla salute di Brunella Filì con Nick Di Fino. Direi che il diritto alla salute, ma direi anche il diritto al sorriso, con questo commovente film. Nelle giurie abbiamo anche dei registi, degli autori, dei cantanti, c'è Niccolò Fabi, ma c'è anche Concita De Gregorio, che sabato alle 16 ci presenterà anche un suo film, Lievito madre, e Vilma Labate, con cui invece la sera di sabato sempre parleremo un po' del suo nuovo film e vedremo Arrivederci Saigon. Allora Francesco, i riferimenti web ce li hai dati, ricordiamo la 3ª edizione dello Human Rights Film Festival, che da Todi si è spostata ad Orvieto, dal 1 al 4 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Francesco Cordio. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, Claudio il lupo. Buona giornata a tutti. Con Michele Crocchiola di Movies Inspired per parlare del film Il Presidente di Santiago Mitre, in uscita in sala il prossimo 31 ottobre. Michele, ben trovato. Buonasera, buonasera ai radioascoltatori. Presentiamolo. Allora, il Presidente, titolo originale spagnolo, La Cordillera, che sono le montagne dove si tiene una specie di G8, un meeting, un summit tra i capi di Stato dell'America Latina, a tema energetico, ma alla fine è una di quelle scene che abbiamo visto tante volte in televisione e che il regista ci porta a vivere in qualche modo dall'interno. Le riunioni, le tensioni, tutti i vari incontri in cui si cerca di portare a casa il risultato, qui nella fattispecie si cerca di chiudere un accordo, diciamo così, energetico. Quindi un elemento, io lo chiamerei sociopolitico, ma si tratta attraverso i rapporti umani e tra i vari capi di Stato presenti, con onnipresente l'influenza statunitense per il Sud America, sempre molto importante. E dall'altro si intrecciano, perché il nostro protagonista è il presidente argentino, interpretato tra l'altro benissimo da Riccardo Darin, si intrecciano un po' di difficoltà, diciamo così, da dietro le quinte per il presidente, tra cui il principale problema è che il genero della figlia separata potrebbe far saltare, far scoppiare un caso, diciamo, di finanziamento del suo partito. rispetto all'Argentina e anche nei paesi in cui è uscito, che risultati sta ottenendo? Il regista si è già fatto una sua piccola carriera a conoscere, in Italia sono usciti anche i suoi film precedenti, anche se non per noi, diciamo così. È uscito un pochino più nascosto L'Estudiante qualche anno fa, però insomma, è conosciuto e in Sud America i suoi film si vedono, sono apprezzati. Bisogna ricordare che un po' come per noi il cinema europeo, lì c'è una maggiore capacità del pubblico magari di immedesimarsi in determinate situazioni. Secondo me il film ha un po' di riferimenti che possono essere colti se vivi in quel luogo la politica sudamericana, ma anche solo la geografia. È interessante come la scelta di ambientare il film sulla cordigliera, con queste panoramiche, le auto che salgono, questi tornanti infiniti per raggiungere il summit, ti diano proprio l'idea della fatica e della difficoltà anche logistica di raggiungere un accordo politico. E quindi sono elementi che fanno parte poi della politica sudamericana, soprattutto il fatto che appunto hanno sempre questo vicino ingombrante a nord che cerca e cercherà di influenzare le loro politiche economiche e non solo. La cordigliera simboleggia anche una certa distanza tra la politica e la vita comune. Guarda, questo è un punto fondamentale. Mettimi un riferimento a quello che è la politica italiana di oggi, che noi chiamiamo populista, comunque la storia pensare, cioè un modo di cercare di interpretare gli umori che abbiamo più distintivi del pubblico e quindi dell'elettorato. Il film Presidente ci riporta su un livello della politica a cui eravamo magari più abituati qualche anno fa. E ci ricorda che esiste anche quella politica che continua a esistere e che sono questi momenti in cui si prendono le vere decisioni, piaccia o meno, e che siccome sono decisioni che hanno poi influenza su milioni di persone per anni, basta un piccolo granello, basta una preoccupazione, basta un problema familiare, basta una distrazione, magari risolta con una seduta di ipnosi, o non risolta, questo lo vedrete nel film, a rovinare, a influenzare tutta una situazione molto molto più complessa. Ecco, io direi che il Presidente ha come grande pregio di ricordarci che la nostra è una società complessa, che le formule scorciatoie brevi non esistono e che bisogna avere una grande responsabilità personale per essere un buon politico. Ecco, sempre rispetto alla lontananza, rispetto alla vita reale, è un politico che viene da un piccolo paese dell'Argentina, era sindaco in quel paesino e per l'opinione pubblica internazionale è un invisibile, chiamiamolo così. Però è navigato e molto pragmatico ed ha uno staff, insomma tutto sta a dimostrare che ha tutte le carte in regola per gestire la situazione internazionale e dall'altro lato tutte le ricadute che ha rispetto invece alla vita personale, con il rapporto complicato con la figlia che teme che abbia fatto fuori il marito e poi nell'episodio dell'ipnosi in cui lui ha paura che lo psicanalista vada a fondo nei segreti di famiglia. Sì, qui stiamo già in realtà dando molte indicazioni, forse quasi un po' spoilerando un po', ma ecco, che facciamo, giuriamolo tutti e due, Federico. Devo dire che sì, il personaggio costruito da Mitre è molto pragmatico e questo è un altro elemento, secondo me, di empatia per il pubblico cinematografico. Vi riconoscerete una serie di personaggi anche italiani. Lo riconoscerete forse anche per il nostro paese questa sottovalutazione che gli altri hanno di questo personaggio. Siccome non viene dai salotti, scappare all'inizio, nonostante sia il padrone di casa. Disco è un grande film nel rappresentare una situazione che ognuno di noi ha visto solo a un palchetto giornale, ha degli elementi di thriller che funzionano molto bene, nel senso di tensione. Secondo me ci sono anche dei momenti un po' di commedia in questa sua realtà, e allo stesso tempo è molto realistico. Non voglio dire che sia un documentario, ma insomma, secondo me Mitre per farlo ha preso un bel po' di informazioni. Insomma, un film completo, un film che in Europa noi vediamo veramente, io non ricordo film così calzanti, così precisi, ma allo stesso tempo così umani, sì, su quello, sì, che è il lavoro che fanno i nostri rappresentanti a Bruxelles piuttosto che a Roma. Sì, molto complesso rispetto alle psicologie e all'umanità. Michele, che uscita sarà? Ma è un'uscita il 31 di ottobre, complicata. Perché è un film argentino, è un film d'essai, ma noi speriamo che sia un film che riesca a raggiungere il pubblico, questo ovviamente sempre, ma pensiamo che sia una bella proposta per un periodo pieno di film più o meno belli, ma che sicuramente ha un suo carattere, una sua identità che può farlo emergere rispetto a tutti gli altri. Bene. Allora, ricordiamo l'uscita in sala del film Il Presidente di Mitre, in uscita in sala con Movies Inspired del 31 ottobre. Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A risentirci. Grazie a voi. Con Andrea Paco Mariani di Distribuzione dal Basso per parlare della novità del mese di OpenDDB. Paco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Novembre. In realtà nella newsletter c'erano scritte quelle di ottobre, ma immagino che riguardino questo mese. Sì, sono le novità, diciamo, le ultime novità. Noi abbiamo un po' questo, diciamo, vizio di raccontarvela a fine mese, nel senso che è come se facessimo un raccolto mese per mese, quindi l'aggiornamento arriva sempre verso la fine del mese. Okay. No, ecco, diciamo che sono le novità che abbiamo lanciato in questi giorni e sulle quali ovviamente faremo tutto un lavoro di promozione e comunicazione nelle prossime settimane. Allora, cosa si muove? Allora, anzitutto mi preme segnalare con enorme piacere il fatto che da qualche giorno è disponibile in piattaforma anche un altro dei lavori di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Fuori Dove, nello specifico, che è uno spin-off di Troppolitani, la famosissima trasmissione che fecero anche su Rai 3. Ovviamente per noi questa cosa è molto importante, non solo perché iniziamo a dare una continuità alle proposte di Antonio e Flavia sulla piattaforma, ma soprattutto perché assieme a loro abbiamo deciso che è arrivato il momento di fare in modo che le persone possano vedere almeno una parte della loro vastissima produzione cinematografica e audiovisuale, che attualmente è difficilissima da trovare. Come sapete, siamo partiti alcuni mesi fa con Milano via Padova, che è un lavoro girato a Milano qualche anno fa, ma a dire a questo punto profetico, visto il modo in cui riesce con il loro linguaggio, la loro capacità di raccontare la quotidianità, mostra esattamente tutte le storture che questo razzismo di ritorno che stiamo vivendo in Italia in questo momento ci mostra. Ed è profetico perché in realtà è un lavoro che fu girato più di 5 anni fa, anche se poi uscì solamente l'anno scorso. È quasi imbarazzante vedere come siano riusciti, come spesso accade in questi casi quando si parla di grandi artisti, di grandi autori, a prevedere ciò che sarebbe poi successo. Visto che appunto quel film sulle richieste on demand è andato molto bene, anche perché c'è urgenza di diffondere le opere di questi due grandissimi artisti italiani, che tra l'altro hanno vinto appunto il premio Leone d'Oro alla carriera pochi mesi fa, abbiamo deciso con loro di proporre adesso mese per mese un lavoro, ogni mese un lavoro diverso, prendendolo dalla loro vastissima produzione. corso dei prossimi mesi di OpenDDB in qualche maniera diventerà la teca digitale on demand delle opere di Antonio Flavia, quindi questo sicuramente è una notizia per noi molto importante. Ecco, stavo pensando al fatto che mantiene una sua attualità nonostante sia di qualche anno fa, proprio perché quella zona di Milano, come altri quartieri nelle maggiori città italiane e non solo, sono un po' dei laboratori di multietnicità. Esatto, sì. Esatto, da un lato quello e dall'altro purtroppo anche rispetto a quello che invece sono le situazioni grottesche che stiamo vedendo oggi, nel senso che Antonio con il format, sempre con quel format molto simile a quello che era appunto il programma di Tropolitani, cioè un modo di interazione con le persone per strada molto schietto e diretto, è riuscito a tirare fuori tutta una serie di cose che a mio avviso sono molto importanti. È sicuramente un film da vedere, così come da vedere il nuovo film che appunto stiamo proponendo, che invece passa su un altro tema che è quello dell'antipsichiatria e con lo stesso, diciamo, linguaggio che viene utilizzato in Milano via Padova, ci racconta un altro tassello di quello che poi, componendo, se voi ci fate caso, l'intera produzione artistica del duo non è altro che un puzzle di tante piccole storie che loro negli anni sono riusciti a costruire attorno a dei temi centrali e a delle contraddizioni che attraversano oggi la nostra società. E questo per noi chiaramente è molto importante, soprattutto perché i tantissimi fan di Antonio e Flavia sono anni che cercavano di avere la possibilità di accedere alla loro gigantesca produzione artistica. Noi ovviamente non ci occupiamo della parte teatrale, che poi è la parte più corposa ovviamente della produzione di Antonio Flavia, ma perlomeno diamo il nostro contributo rispetto a quello che è la parte di produzione audiovisuale. E quindi da questo mese in poi, più o meno una volta al mese, continueremo questo passo dopo passo, questa riscoperta di tutto quello che è la loro produzione, che ricordo ormai essere attiva da più di 30 anni, quindi una produzione molto vasta anche rispetto a quello che riguarda l'audio video. Che gli è valsa il premio alla carriera. Esattamente, esattamente. Poi abbiamo altre proposte, sempre sulla parte diciamo più legata all'audiovisuale. In particolare ci tengo a segnalarvi due proposte che arrivano da un collettivo francese con cui siamo in contatto da mesi. Vi ricordo che appunto la nostra piattaforma ormai da più di 2 anni è una piattaforma internazionalizzata, quindi spesso ci capita di aprire relazioni anche con collettivi da altri paesi, principalmente dall'Europa, ma non solo. E Cinéma Fragile, non so se lo dico nel modo corretto, è un collettivo francese che si occupa soprattutto di cinema sperimentale. E la cosa bella è che loro spesso hanno realizzato coproduzioni tra Italia e Francia, sempre con una chiave di produzione strettamente indipendente, e abbiamo preso adesso due le loro opere per iniziare appunto a cogliere anche loro nella nostra comunità, diciamo nella nostra community, in particolar modo Aurelia, che è stato presentato al Vision Durel 2017 e che vi consiglio di vedere e andare a vedere, perché è assolutamente un lavoro molto interessante, girato appunto lungo il percorso della Via Aurelia, la famosa Via Aurelia che abbiamo qui in Italia. E tra l'altro saranno presenti qui a Bologna i prossimi giorni con Circuito Nomadica, che fa una 3 giorni qui a Bologna, sempre dedicata ad autrici e autori del cinema indipendente più, diciamo, d'essai o comunque sperimentale, e saranno ospiti anche loro con altre produzioni, non con queste che abbiamo in catalogo. Per cui, insomma, per chi fosse in zona Bologna, consiglio di andare a vedere anche sul sito di nomadica.it il programma completo. Poi abbiamo diverse proposte anche sulla parte editoriale. In particolar modo ve ne segnalo una che in realtà è multipla, nel senso che c'è una casa editrice molto interessante che si muove tra la Toscana e Roma, che si chiama Elementi Kairos, che piano piano, spesso tra l'altro con operazioni di crowdfunding, ha prodotto negli ultimi 3-4 anni ha avuto una vasta attività di produzione editoriale, soprattutto concentrandosi sul Sud America e sulla Palestina. Da mesi seguiamo i ragazzi, anche perché siamo in contatto con loro, insomma, anche per altri progetti paralleli, e finalmente abbiamo acquisito in catalogo nella sezione editori indipendenti 4 dei loro titoli. In particolar modo vi segnalo 2 titoli: Il mio nome è Amal, che è ambientato

Come lo descriveresti il tuo lavoro? Direi che è una storia molto singolare, quasi incredibile, calata in un momento molto particolare che sconvolgeva il mondo, che era il 1968. Forse oggi non sarebbe successa, anzi non potrebbe succedere una cosa così. Ma allora sì, 50 anni fa sì. Che successe allora, Vilma? Che un gruppo di ragazzine, perché erano delle adolescenti tutte, erano 5, tranne una che aveva 22 anni, misero su in una cittadina della Toscana, Piombino, un gruppo musicale di sole ragazze e furono ingaggiate per una tournée in Estremo Oriente. Arrivate in Estremo Oriente scoprirono che la loro reale destinazione era il Vietnam del Sud, dove c'erano le basi dell'esercito americano che combatteva una guerra molto dura contro il Vietnam del Nord. E quindi rimasero 3 mesi a suonare per i soldati americani. La prima domanda che mi viene in mente è: quale fu l'anello di congiunzione? Chi le ha contattate ed era in contatto con l'esercito americano? Avevano un impresario che si chiamava Saggini, e l'impresario però, come loro d'altronde, non parlava inglese. Il contratto stipulato con un altro impresario milanese era un librone complicatissimo, come tutti i contratti, scritto in inglese, perché credo redatto dagli americani, e sul contratto c'erano scritte varie sedi dell'Estremo Oriente: Hong Kong, Tokyo, Singapore, Manila, e recitava il contratto così: in una di queste sedi. Nessuno ha fatto caso evidentemente a questa frase, in una di queste sedi, e in una loro sono state, in Vietnam. Che esperienza è stata per queste ragazze? Secondo me molto ricca, molto bella e molto importante. Ha determinato sicuramente le loro vite, le loro personalità, e che però ha determinato la fine del complesso e la fine della loro carriera musicale, perché una volta tornate sono state accusate di essere state dalla parte sbagliata, ed effettivamente quella era la parte sbagliata. Però è anche vero che l'esperienza che loro hanno fatto le ha sicuramente arricchito moltissimo, senza cambiare le loro idee politiche. Loro non pensavano di andare a suonare per l'esercito americano. Venivano tutte dalla Toscana Rossa e da famiglie comuniste, quindi sicuramente erano dalla parte dei vietnamiti del nord, che allora si chiamavano Viet Cong, erano i Viet Cong. Però l'idea di stare nelle basi dei soldati americani ha dato loro la possibilità di imparare moltissime cose sulla vita e anche sulla storia, perché quei soldati americani avevano la loro stessa età, avevano 18 anni, e non partivano volontari, ma partivano con una cartolina che li obbligava a partire per la guerra appena il carcere. Alcuni di loro, anzi molti di loro, sono riusciti a stracciare la cartolina e a emigrare, o comunque a rendersi irreperibili per la legge. Altri sono stati costretti a partire, anche perché venivano sorpresi, proprio venivano presi a casa e portati. Quindi loro hanno conosciuto questi soldati, e non i graduati militari, gli ufficiali, quelli che durante quella guerra invocavano la pace e la combattevano anche stando lì. Ma soprattutto loro hanno frequentato gli afroamericani, cioè i soldati neri, quindi quelli che venivano mandati più di tutti in prima linea, e grazie a loro hanno Italia si chiamava Rhythm and Blues e che in Vietnam hanno scoperto essere soul music. Grazie all'amicizia con questi giovani anche il loro repertorio musicale è cresciuto molto. Vilma, come è rivenuta a conoscenza di questa storia? Me l'ha raccontato uno scrittore che io avevo contattato perché mi era piaciuto e avevo letto un suo romanzo. È venuto subito a Roma e me l'ha raccontata e insieme siamo assolutamente impazziti e abbiamo cominciato a lavorare, a scrivere una sceneggiatura, perché oltre che un documentario questa storia è anche un film naturalmente. Ecco, a questo proposito, come l'hai strutturato questo lavoro? Non è stato molto semplice perché avevo bisogno di film che raccontassero la vita nelle basi americane. Ora noi siamo abituati a vedere o comunque abbiamo visto tanto materiale che racconta la guerra del Vietnam e quindi le battaglie nella giungla, i bombardamenti, le navi che sbarcano e sputano centinaia, migliaia di soldati armati. Il materiale di cui avevo bisogno io era il backstage della guerra e non la guerra in prima persona, perché loro, le ragazze, naturalmente non hanno suonato durante un combattimento per dei soldati che combattevano, hanno suonato nei momenti di pausa. E quello è stato molto complicato e molto difficile. E, però devo dire che gli archivi americani sono molto ricchi, e molto attrezzati, hanno del materiale molto bello. E la guerra del Vietnam è stata molto filmata, moltissimo, forse più di ogni altra guerra, anche quelle recenti. Malgrado oggi ci sia internet, ci siano mezzi di comunicazione pazzeschi, quella guerra lì ha chiamato un sacco di cineasti, di documentaristi, di registi per raccontarle. Poi ha anche prodotto un filone di cinema meraviglioso con il quale i più grandi di noi, cioè quelli della mia età, si sono nutriti e si sono esaltati, perché era un cinema bellissimo, parlo di Coppola, di Cimino, eccetera. La struttura del documentario è abbastanza semplice, nel senso che loro raccontano la loro avventura e i loro racconti sono abbastanza bizzarri, perché a tratti tutto sembra inverosimile, tutto sembra inventato e contemporaneamente c'è il racconto di quell'anno, e quindi del 1968, in Italia e nel mondo, della guerra in Vietnam, dei momenti di pausa del Vietnam, della guerra, e quindi le basi, la vita nell'attesa di partire per la prima linea, della preparazione del pranzo, piuttosto che appunto del concerto, e dei Vietcong. Il quale materiale, quello dei Vietcong, è in bianco e nero, anche se anche loro sono stati molto raccontati dal cinema, moltissimo, mentre gli americani sono a colori. Per sintetizzare in una immagine questo lavoro di grande incursione in tanto materiale, tutto molto interessante, mi è capitato di trovare una cosa che oggi probabilmente con la ricchezza di mezzi di comunicazione che abbiamo non succederebbe. Allora, l'immagine è questa: un gruppo di ragazze Viet Cong, molto belle, con il fucile in spalla, entra in una galleria e si ferma in uno spazio più largo, dove c'è un signore con un proiettore che monta una pizza di pellicola. La proiezione comincia e ci sono le manifestazioni a favore dei Vietcong di tutta Europa. Allora, in quell'anno particolare,